notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Italia ha un futuro che è più grande del proprio passato. Quindi si intravede praticamente l'impero romano e oltre, diciamo, del futuro, sapete, l'ottimismo di Renzi. Ieri ha fatto il suo discorso per il programma dei mille giorni, dei prossimi mille giorni fino al 2018, poi vediamo, oggi ci aggiorniamo con le notizie. Come sempre, lo sapete, dalle 21 tutte le sere, effetto notte, per raccontarvi come è andata la giornata. E allora iniziamo dai titoli, in sintesi. Stallo su Consulta CSM, monitor di Napolitano, incontro di due ore tra Renzi e Berlusconi, ma di nuovo una fumata nera. Per il lavoro, governo accelera, tutele crescenti per i neoassunti, battaglia sull'articolo 18, sindacati pronti allo sciopero. ISIS, il presidente Obama annuncia coalizione di 40 stati contro l'esercito del terrore, ma niente interventi di terra. Scozia, domani il referendum per decidere sull'indipendenza, testa a testa tra favorevoli e contrari. Expo per vie d'acqua, indagato Antonio Cerbo, l'uomo di Padiglione Italia. Roma, una guardia giurata uccide con un colpo alla testa la sua ex compagna di 27 anni, secondo l'uomo si tratta di un colpo partito accidentalmente. Per il calcio c'è il debutto della Roma in Champions contro il CSKA, poi ci aggiorneremo, capiremo dopo la Juventus di ieri se anche la Roma otterrà dei buoni risultati. Vi ricordo che c'è sempre il numero per i messaggi, per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina Facebook di Effetto Note. Cominciamo un po' a snocciolare le notizie. E partiamo dallo stallo delle votazioni parlamentari sui nuovi giudici della Corte Costituzionale e dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, stallo che ha provocato un nuovo intervento del Capo dello Stato, molto arrabbiato, oltre a un intervento, un nuovo vertice anzi tra Renzi e Berlusconi, due ore, che però pare Elisabetta Fiorito, tu che sei in diretta da Roma, non sia servito a molto, no, dagli esiti finali. Ciao Betta. Beh, insomma, ciao, c'è stato un'ora e 40 di faccia a faccia tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, che è andato a Palazzo Chigi a trovare il Premier. Ufficialmente non hanno parlato di CSM, di Consulta, difficile da credere visto che insomma il Capo dello Stato ha tuonato, no, di superare l'impasse e dire basta a logiche settarie. Ma comunque loro si sono visti e dice che hanno parlato di legge elettorale e confermano il ticket per la Consulta, che è appunto quello di Luciano Violante per il PD e di Donato Bruno per Forza Italia. Il problema è che comunque, anche se l'hanno confermato, la fumata anche stasera è stata nera. Quindi ricordiamo che nessuno dei candidati alla Corte Costituzionale, tre quinti del Parlamento, quindi una maggioranza qualificata molto molto alta, 570 voti, ha raggiunto il quorum necessario. Violante ha avuto 518 voti, Bruno 511 e sono stati dispersi 55 voti, quindi sulla scheda bianca 167, ma lì quelle si possono facilmente contare perché sono il Movimento 5 Stelle e SEL, nulle 40, non si sa cosa abbia fatto la Lega, probabilmente le ha annullate. Lo stesso dicasi per il CSM, perché la maggioranza richiesta era 514 e Pier Antonio Zanettini ha avuto 448 voti. Ricordiamo che questa mattina si è ritirato per Forza Italia Luigi Vitali, che era colui che un po' contestato anche dal PD per delle indagini e delle inchieste in corso. Insomma, questo monito del Capo dello Stato cade ancora nel vuoto e domani la Camera si riunisce di nuovo in seduta comune, quindi Camera e Senato a Montecitorio alle 9:30 e vediamo se la tredicesima votazione magari porterà un po' di fortuna. Sarà il numero 13, vediamo. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Poi ritorniamo su questo argomento per capire anche che importanza ha, che cosa c'è dietro e quali sono le dinamiche. Intanto, mentre lì abbiamo detto per la votazione per il CSM la Consulta si perde tempo, sul lavoro invece, sul Jobs Act, si accelera. È stato presentato l'emendamento sul contratto a tutele crescenti e i sindacati sono in allerta per l'articolo 18. Il governo accelera sul Jobs Act con un emendamento al disegno di legge delega. Palazzo Chigi ridisegna infatti le forme contrattuali per i neoassunti e, senza citarlo, interviene inevitabilmente anche sull'attuale regime dell'articolo 18. Per le nuove assunzioni viene previsto dunque il contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Vi è quindi il riordino delle forme contrattuali esistenti e dei rapporti di lavoro, ma anche delle ispezioni ed ancora l'uso più flessibile delle mansioni, il salario minimo esteso anche ai co-co-co. Sul lavoro dobbiamo dare regole che siano sostanzialmente uguali per tutti, commenta il presidente del Consiglio Renzi. Il ministro del lavoro Poletti spiega: quando faremo i decreti attuativi prenderemo una decisione sull'articolo 18. In questo momento dovevamo rendere chiara e definita la materia e c'è il contratto a tutele crescenti, avendo tolto dal testo gli elementi che lasciavano più elementi di incertezza sulla sua pratica attuazione. Il contratto a tutele crescenti non è la negazione dei diritti, aggiunge il sottosegretario Bellanova. Già domani le modifiche sono attese intanto alla prova del voto in Commissione Lavoro del Senato. Il testo arriverà in aula la prossima settimana. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Molto bene, perché ho concordato con me come relatore, è un nuovo testo che prevede la sostituzione dello Statuto dei lavoratori con un testo unico semplificato. È soddisfatto il presidente della Commissione Lavoro Sacconi, ma anche il leader del nuovo centrodestra e ministro dell'Interno Alfano. La nostra perseveranza, dice, è stata premiata. L'articolo 18 però rischia di diventare ancora campo di battaglia. Dalle opposizioni si leva la protesta di Selle, il coordinatore nazionale Nicola Fratoianni. Il tema dell'articolo 18 torna ad essere il tema della riduzione dei diritti, cioè di una ricetta che non ha prodotto nessun posto di lavoro in più e in questi anni ha prodotto invece la riduzione della qualità del lavoro che c'è, dunque è una ricetta sbagliata. Critiche anche dalla minoranza PD, una ricetta della destra inaccettabile, dice Fassina, ma l'attacco più duro arriva dai sindacati che puntano ad una manifestazione unitaria senza escludere uno sciopero. L'articolo 18 è solo lo scalpo che Renzi deve portare in Europa, ha tuonato la segretaria della CGIL Camusso durante la direzione nazionale, mentre per Bonanni della CISL è un'ossessione del governo, una discussione che non ha senso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, vi siete fatti un po' un'idea, poi ne parleremo ulteriormente, però mi piacerebbe sapere questa sera cosa ne pensate di questa di questo emendamento, di questa proposta, insomma, del governo di superare in qualche modo lo statuto dei lavoratori e quindi eliminare l'articolo 18. Sapete, se ne discute da tanti anni, adesso sembra che appunto il governo voglia accelerare. Che cosa ne pensate di questa possibile riforma del lavoro? Potete scriverlo sia con gli sms al 349-238-6666, intanto ringrazio Cristiano da Gallipoli, e poi sulla pagina Facebook di Effetto Nota, che è sempre lì a vostra disposizione. Adesso intanto, mentre voi riflettete, ci spostiamo sulle notizie dall'estero. Oggi il presidente americano Barack Obama ha incontrato i generali americani per pianificare l'assalto ai jihadisti dello Stato Islamico in Iraq e in Siria, per mettere a punto insomma la strategia contro l'ISIS. Non manderemo altre truppe in Iraq, ha detto però Obama, ma la coalizione antiterrorismo intanto si rafforza. E poi c'è la Scozia, che è al rush finale perché domani decide per l'indipendenza della Gran Bretagna, testa a testa i pro e i contro sono per il momento. Il primo ministro britannico Cameron è intanto nella bufera, si dice preoccupato, però dice: anche in caso vincesse l'indipendenza della Scozia io non vado via. Affronteremo anche questo argomento poi collegandoci direttamente proprio con un nostro inviato in Scozia. Intanto però torniamo in Italia con un nuovo indagato nell'indagine sugli appalti truccati di Expo. È Antonio Cerbo, ex direttore generale del Comune di Milano. È il terzo top manager della squadra del commissario unico Expo Giuseppe Sala a finire nel mirino della magistratura. Antonio Cerbo, responsabile unico di Padiglione Italia, risulta indagato per corruzione e turbative d'asta perché avrebbe favorito illecitamente nel 2013 l'imprenditore Enrico Maltauro nell'assegnazione degli appalti per il progetto Le Vie d'Acqua. Le accuse a carico di Acerbo nascono, oltre che da intercettazioni, proprio dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore vicentino arrestato nel maggio scorso nel primo filone dell'inchiesta sugli appalti Expo. Antonio Cerbo, che è commissario delegato opere infrastrutturali Expo 2015, è stato direttore generale del Comune di Milano nella Giunta Moratti e ha curato tra l'altro il restauro della scala e i lavori della stazione centrale. Per il presidente anticorruzione Raffaele Cantone, ora il ruolo di Acerbo in Padiglione Italia può rappresentare un problema. Concorda il sindaco Pisapia, che ne chiede le dimissioni. No comment di Roberto Maroni: è una vicenda che riguarda Expo, non la regione, si è limitato a dire il governatore lombardo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la cronaca, una guardia giurata che oggi ha ucciso l'ex compagna di 27 anni, Natasha Meata, avrebbe raccontato alla polizia che il colpo è partito mentre toglieva la pistola dalla fondina. L'appartamento è stato posto sotto sequestro, verranno effettuati anche gli esami balistici per accertare la traiettoria del proiettile. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Si potrebbe parlare di una, come si può dire, di una precisione accidentale, quasi, visto che il colpo ha colpito la testa. Insomma, si vedrà cosa decideranno gli investigatori. A proposito di casi di cronaca, andiamo sul caso Iara. Per i legali di Bossetti, PM nascondono elementi a suo favore. È un attacco frontale. A pagina 11 della stessa istanza di scarcerazione lo sferrano i due legali di Massimo Bossetti, il muratore in carcere, con l'accusa di aver ucciso Iara Gambirasio. Nelle 40 pagine dell'istanza, Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti accusano chiaramente gli inquirenti, scrivendo nero su bianco che la Procura della Repubblica di Bergamo avrebbe nascosto al giudice degli elementi che, se riportati, avrebbero condotto a differenti conclusioni. Nella richiesta di custodia cautelare per il loro assistito spiegano non sarebbero stati inseriti tutti gli atti che avrebbero potuto favorire la scarcerazione dell'artigiano. L'istanza comunque è stata bocciata dal giudice delle indagini preliminari lunedì scorso, perché a carico di Bossetti esisterebbero gravi indizi di colpevolezza e ci sarebbe il pericolo di reiterazione del reato. Ma la frase rimane, anche se nell'istanza non vengono citati né indicati gli elementi in questione. Ora però la mossa aspetta la Procura di Bergamo, se vorrà intervenire sull'accusa scritta in un documento ufficiale. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E direi adesso, in chiusura di questo primo blocco, di questo primo quarto d'ora naturalmente, di aggiornarci su quanto sta combinando la Roma, che ha debuttato in Champions League. È vero, Dario Ricci? Sì, hai proprio ragione Roberta, ben ritrovata. Beh, Roma che direi cammina sul velluto questa sera all'Olimpico, perché siamo al 30° del primo tempo, giallorossi già in vantaggio per 3-0 sul CSKA Mosca, la prima rete di Iturbe al 6° del primo tempo con lancio in verticale di Gervinho, come assist man al 10° Iturbe restituisce il favore a Gervinho che insacca da pochi passi il 2-0 e poi Maicon al 20° sigla il 3-0 con un bel diagonale potente, sì, ma Hakim Fejev ha le sue responsabilità, il portiere del CSKA Mosca, perché non riesce a trattenere la bordata del brasiliano. Tutto facile, unica nota negativa, al 25° proprio l'infortunio, probabilmente muscolare, ai Turbe, sostituito da Florenzi. Roma 3, CSKA Mosca 0 finora. Caspita, grazie Dario Ricci, a dopo, vedremo se aumenteranno anche questi gol, mi sembrano già sufficienti al momento. Intanto vedo i vostri messaggi tra i tanti al 349-238-6666. Lavoro, quale lavoro, dice Tina a proposito della riforma del lavoro. E poi Manu dice non creano posti di lavoro ma tolgono diritti ai lavoratori. E ancora invece Alessandra scrive l'articolo 18 non c'è da un pezzo, infatti resta solo per i licenziamenti discriminatori, ma nessuno lo è scopertamente, è ovvio che si usano pretesti e modi vari inattaccabili. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Aggiornamenti per chi viaggia, molto veloce come avete sentito, e sarò veloce anche nel ricordarvi quali sono le notizie principali di oggi, se avete acceso in questo momento o se le volete riascoltare, e poi cominceremo ad approfondire con gli ospiti tra poco vari argomenti, tra cui questo così importante, centrale della riforma del lavoro, con anche i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Allora, le notizie di oggi. Per la consulta CSM ancora fumata nera in Parlamento nonostante il vertice Renzi-Berlusconi, monito di Napolitano alle Camere che dice tutto ciò solleva dei gravi interrogativi. Il governo accelera sul lavoro e battaglia sull'articolo 18, tutele crescenti ai neoassunti, i sindacati intanto sono pronti allo sciopero. Per l'ISIS il presidente Obama annuncia una coalizione di 40 stati contro l'esercito del terrore. La Scozia intanto si prepara domani al referendum per decidere sull'indipendenza. A Roma una guardia giurata uccide con un colpo alla testa la sua ex compagna di 27 anni, l'uomo dice si è trattato di un colpo partito accidentalmente, intanto ci sono indagini degli investigatori. Per il calcio abbiamo appena sentito che la Roma in Champions contro il CSKA è già 3-0. E non chiedo naturalmente ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che effetto gli fa questo risultato, perché ci ha già detto altre volte che nel calcio non gliene importa niente. E giusta 4-4, mi dice Cristian Goldoni dalla regia, 4 gol della Roma, questo CSKA è proprio KO più che KA, insomma. È vero. Buonasera a tutti. Alessandra. Ciao Alberto. Noi invece, Alberto, interessano i risultati del governo, giustamente, e le azioni del governo. Il governo, che abbiamo detto, accelera sul lavoro, già è battaglia sull'articolo 18, in realtà è una battaglia che dura da anni, e è stato presentato, la novità è questo emendamento del governo che prevede un riordino delle forme contrattuali, modifiche sulle mansioni, controlli a distanza, quindi il telelavoro, soddisfatto il nuovo centrodestra, applausi e mal di pancia nel PD, quindi un po' diviso, e la segretaria della CGIL Camusso non esclude lo sciopero, quindi insomma, dicevamo, battaglia sull'articolo 18. Ci configuri un po', ci illustri, Alberto, sinteticamente appunto i punti principali e poi andiamo su quelli più caldi. Sì, è importante questo emendamento perché il governo ha fatto chiarezza che il contratto a tutele crescenti sarà sostanzialmente il principale rapporto di lavoro dell'ordinamento italiano. Insomma, si entrerà al mondo del lavoro con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, vuol dire che viene assunto e per un certo periodo non si applica l'articolo 18, cioè che prevede la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento considerato illegittimo. Cioè per 6 mesi ti possono licenziare senza giusta causa. Per 6 mesi, diciamo. Per 3 anni, per 5. Adesso questo è ancora da specificare nei provvedimenti, nei decreti attuativi. Questo non è specificato nell'emendamento alla delega. E quindi vuol dire questo, sì, sostanzialmente il reintegro rimarrà per i licenziamenti discriminatori, che sono quelli per sesso, religione, appartenenza politica e razza, naturalmente sono tutelati dalla Costituzione, quindi su quello non c'è niente da fare, ovviamente. Anche se vogliamo dircela una cosa, Alberto, tra di noi, non è che uno ti viene a dire sì, l'ho licenziata perché è una donna, sì, l'ho licenziato perché è nero, no? No, sicuramente no, però diciamo così, c'è un'ampia giurisprudenza per cui questo tipo di fattispecie viene smascherato, e viene appunto sanzionato poi dai giudici, quindi non è una cosa così semplice obiettivamente, i giudici sono molto severi su questo. Invece c'era stata una grande incertezza interpretativa in fase di contenzioso davanti al magistrato proprio della nuova formulazione dell'articolo 18, così come è messa la riforma Fornero, che aveva introdotto la possibilità di licenziamento per motivi economici, cioè se un'azienda deve chiudere un pezzo di impresa, una filiera produttiva perché non ha più commesse o non riesce più ad andare avanti, eccetera, quel tipo di licenziamenti lì sono licenziamenti economici. Però sono valutati in modo molto differente, lo ha detto anche Renzi in diversi spunti in questi giorni, dai magistrati che devono valutare i contenziosi, quindi a seconda di dove ti capita vieni reintegrato oppure no. Ecco, e quindi questo non va bene, ovviamente ci vuole un po' più di chiarezza, un po' più di semplicità poi nella gestione di queste cose. L'emendamento di oggi però è importante perché appunto, ripeto, fa chiarezza, cioè si viene assunti con un contratto a tempo indeterminato, sempre sostanzialmente, non è una fattispecie che si aggiunge alle 46 o 44 già esistenti, quindi ad aumentare la babele che già esiste per chi si affaccia al mondo del lavoro. Diventerà la principale via di ingresso al mercato del lavoro, cioè contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Ora si tratterà appunto di vedere come saranno formulate la tempistica di questo aumento delle tutele e quale diventerà il costo dell'indennizzo in caso di licenziamento, che sono le due cose fondamentali naturalmente, e siccome il diavolo poi è nei dettagli, bisognerà vedere come saranno formulati i decreti attuativi. Senti, leggo tra i tanti messaggi, Roberto da Ferrara: una volta c'erano i servi della gleba, ora vogliono i nuovi schiavi del lavoro. Credo sia una riforma piduista che ci riporta indietro a fine 800. Ce ne sono molti, altri invece dicono, per esempio Giorgio sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: la strada in qualche modo è sensata, vedremo nello specifico, ma servirà per un mercato del lavoro inclusivo, non a difesa di chi è già dentro, a tutela preferenziale per coloro che lavorano per grandi gruppi. Anche se molti pongono questa obiezione, Alberto Rioli, cioè dicono: ma perché bisogna levare i diritti ad alcuni per parificarli invece, piuttosto che aggiungere agli altri, cioè includere gli altri nei diritti? È una questione di costi? Ma non solo di costi, è una questione di fiducia, di rendere più semplice a chi vuole investire il poterlo fare sostanzialmente. Questo è il grande problema dell'Italia in questo momento, e non solo in questo momento, relativamente al tema del lavoro. Cioè tutti gli osservatori internazionali, gli investitori, l'Europa, la BCE, la Fed, che chiunque altro tu voglia indicare, si sono espressi su questa questione, considerandola per l'Italia una forma di cambio di rotta effettivo, di aumento di credibilità nella propria azione riformista. Quindi il valore forte di questo tipo di emendamento è tutto lì. Concretamente non sarà una cosa così sconvolgente, a dire la verità. L'articolo 18 oggi si applica a una marginalità dei lavoratori e quasi mai viene poi portato di fronte ai contenziosi, non più di tanto. Quindi, però, è una cosa che inibisce moltissimo, per esempio, le aziende che vogliono aumentare la soglia dei 15 dipendenti, che preferiscono fare due imprese magari da 7 o da 8 addetti per evitare di dover superare la fatidica soglia dei 15. Ma secondo te, Alberto, è proprio vero? Perché, per esempio, ieri poi si contraddicono, poi ritorna. Ieri il ministro dell'economia Padoan ha detto: l'articolo 18 è un falso problema, non è che gli investitori esteri non investono nel lavoro in aziende da noi per l'articolo 18, perché neanche sanno cosa sia, quindi non è che li spaventi, perché neanche lo conoscono. Quindi c'è un po' di contraddizione. In più, sarà vero davvero che levando l'articolo 18, quindi l'obbligo di reintegro, di indennizzo, eccetera, eccetera, si aumenteranno i posti di lavoro? No, questo sicuramente non è questo il punto. No, così come peraltro avere tutto questo castello di presunti diritti o garanzie non li ha creati i posti di lavoro, perché se siamo messi così male evidentemente non è servito a quello, questo è ovvio. E io temo che anzi sia servito a spostare la discussione vera tra le parti sociali, tra le parti sociali e il governo, su un tema feticcio che ha uno scarso valore poi effettivo nella creazione di lavoro e nella creazione di nuova ricchezza da spartire, che poi è quella la cosa vera importante che serve al sistema economico. Cioè, bisognava parlare di produttività, parliamoci chiaro, per tanti anni bisognava concentrarsi sul tema della produttività, dell'incremento dei salari, della contrattazione aziendale che potesse redistribuire ricchezza e per quella via far aumentare anche il prodotto interno lordo e probabilmente creare un clima di fiducia e di consapevolezza dei propri mezzi per un paese intero, come purtroppo oggi non abbiamo. L'aver creato le grandi barriere ideologiche sull'articolo 18 ha fermato la discussione su questo scontro tra Guelfi e Ghibellini, che non ha portato razionalità al dibattito. Però questa cosa era un'azione da compiere, perché non è proprio vero che dal mondo dell'impresa non si guarda poi a questo tipo di regole per aumentare gli investimenti, anzi a noi anche risulta moltissimo dalle mail che riceviamo, dalle aziende che sentiamo, chiaramente dagli investitori che ci capita di incontrare. Cioè, quindi secondo appunto imprenditori, investitori eccetera, se si rende più facile la possibilità di licenziamento, più facilmente creano posti di lavoro? Cioè, si supera quel pregiudizio che fa dire agli imprenditori: ma io non la faccio questa assunzione perché purtroppo per il tipo di regole che abbiamo devo fare un matrimonio, io non me la sento perché non so fino a quando poi riuscirò a garantire questi standard produttivi, eccetera. Questa cosa è stata pagata dalle generazioni nuove ormai da molti anni, per cui essendo bloccato il meccanismo di flessibilità in uscita si è enormemente ampliato il meccanismo di flessibilità in entrata, spezzettando il mercato del lavoro a discapito dei giovani che sono entrati come precari, come partite IVA fittizie, come collaboratori, come contratti a progetto e tutto quant'altro si voglia dire, tutte forme che non consentivano poi di creare un rapporto di lavoro lineare e che poi consentisse di creare quel minimo di nucleo dell'attività economica di un paese, che è la famiglia o comunque il nucleo di base sulla quale poi uno crea il proprio futuro, apre il mutuo e tutto il resto. Ora, tutta questa cosa dovrebbe rendersi possibile perché il meccanismo dei rapporti di lavoro viene enormemente semplificato e probabilmente dovrebbe facilitare. Sta arrivando tantissimi messaggi, vediamo un altro, per esempio di Fabio Carrera, che dice: mi sembra che non ci sia solo in ballo l'articolo 18, vogliamo parlare del demansionamento, perché Sacconi ne parlava oggi, Presidente della Commissione Lavoro, del fatto che sarebbe previsto anche in casi particolari in aziende, se necessario, anche il demansionamento. Un po' queste cose, insomma, fanno, no? Questo è un altro degli elementi che stanno dentro all'emendamento presentato oggi dal governo. È chiaro che anche lì bisognerà vedere come sarà attuato. Sono quei provvedimenti da paese in recessione, appunto, perché il demansionamento è semplicemente un imprenditore che non vuole licenziarti e che sostituisce il lavoro di un certo livello col lavoro di un livello inferiore che gli si rende disponibile. Insomma, sono quelle anche forme se per sono salvare un po', l'occupazione. Un po' scivolose possono essere queste cose, ma fatte a propria discrezione, magari perché quel lavoratore, quel dipendente ti sta un po' così, potrebbe esserci, no? Questo rischio. Ma guarda, questo voglio dire, fa parte delle cose umane, come dire, è probabile che ci possa essere un rischio di comportamenti maliziosi o quant'altro, però io penso che un castello di norme, un indirizzo politico strategico non possa essere fatto su un'idea distorta dei comportamenti delle persone o dei soggetti più o meno istituzionali. È un paese fatto solo immaginando un popolo di truffatori o di gente che è pronta a fregarti, non va da nessuna parte, io penso. Leggiamo ancora pochi messaggi, sono tanti, ma non facciamo in tempo a leggerli tutti, magari più tardi. Floriano dice: è la strada giusta quella iniziata dal governo, solo in Italia un datore di lavoro può lasciare la moglie, ma non un dipendente, altro che matrimonio. Relishan dice che ancora una volta nominano l'articolo 18, fondo un partito, se lo nominano pro lavoro in nero, abolire i sindacati per legge, dice, non siamo più nel 1800 dove morivano in miniera. Alessandra dice: io sono per non toccare l'articolo 18, bisogna prendere ben altre decisioni. Giuseppe dice: questa cosa mi fa venire i crampi allo stomaco, c'è chi dice una porcata togliere l'articolo 18, e poi invece era l'ora, dice Gerardo, basta discriminazioni tra i lavoratori. Insomma, pareri com'è il paese in questo momento, però appunto fino adesso, ripeto, un castello di norme che ha creato il giuslavorismo, che poi è una fattispecie giuridica che praticamente abbiamo solo noi, ha creato un paese ancora una volta patria del diritto, patria delle garanzie, delle tutele, ma con la disoccupazione al 12,7%, al 12,6%, con una disoccupazione giovanile che è il doppio di quella che gira in Europa. Quindi c'è qualcosa che non va obiettivamente, ma non è solo un problema di regole, questo va detto con grande chiarezza, evidentemente è anche un problema di politica industriale, è un problema di un paese che non ha preso mai in mano le direttrici strategiche di dove andare a far veicolare gli investimenti, che non la ha creato, visione, una visione anche di visione, non c'era un'idea che comunque le imprese fossero benvenute. Oggi ha detto bene Renzi a questa visita che ha fatto allo stabilimento dell'Oreal, che non siamo un paese contro le multinazionali, ben vengano gli investimenti, ben vengano impianti produttivi, se poi sono ecocompatibili è ancora meglio naturalmente, però ci vuole un po' un cambio di rotta, soprattutto su che cos'è effettivamente che genera il lavoro, che poi è l'impresa, non c'è niente da fare, il lavoro non si fa da solo e non si fa con una regola o con un decreto. Siamo ansiosi e curiosi di vedere insomma dove come si evolverà questa situazione. Grazie intanto Alberto Orioli, buon lavoro a te. Buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e vedo che continuano ad arrivare i vostri messaggi sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che non si muove di lì, a proposito dell'articolo 18, di questa riforma che intende fare Renzi e il governo, sempre diciamo pareri opposti tra i tanti che ho letto dei vostri. Per esempio c'è dunque, se lo ritrovo, vediamo, eccolo qua, c'è Alessandra che scrive: le mie amiche in gamba e qualificate, o amiche qualificate in gamba, che hanno perduto il lavoro dopo essere stata in gravidanza, aver preteso tutte le agevolazioni di legge, se ne sono fatti un baffo e certo non hanno scritto licenziata perché madre. E poi invece Roberto dice: finalmente lo faranno, toglieranno l'articolo 18 e livelleranno tutti verso il basso i nuovi schiavi, mentre un altro ascoltatore scrive: l'articolo 18 protegge soltanto i fannulloni. Adesso però vi racconto di nuovo brevemente con i titoli delle notizie e poi approfondiamo altri argomenti. Stallo su Consulta e CSM, c'è cioè il monito di Napolitano, incontro di 2 ore tra Renzi e Berlusconi, ma è una nuova fumata nera. E poi per il lavoro vi dicevo che il governo accelera con questo nuovo contratto che dovrebbe prevedere tutele crescenti per i neoassunti, intanto la battaglia sull'articolo 18. L'ISIS, il presidente Obama annuncia che c'è una coalizione di 40 stati contro l'esercito, ma non ci saranno operazioni di terra. Per l'Expo, per vie d'acqua, ha indagato Antonio Cerbo, l'uomo di Padiglione Italia, quindi si allarga l'indagine. Poi per il calcio, la Roma in Champions, che pare sia a ottimi risultati, invece che un CSKA sta battendo un CSKO, dicevo prima Dario Ricci. Hai proprio ragione Roberta, buona la battuta, perché Roma, sì, siamo nell'intervallo all'Olimpico, 4-0 per i giallorossi, i Turbo al sesto, Gervinho al decimo, al ventesimo l'assolo di Maicon, al 31esimo la doppietta di Gervinho. Roma che va via fa facile, l'unico inconveniente al 25esimo l'infortunio muscolare di Iturbe sostituito da Florenzi. Un rapidissimo sguardo agli altri parziali sugli altri campi d'Europa, col Paris Saint-Germain in vantaggio per 1-0 ad Amsterdam sull'Ajax, 1-0 anche per il Barcellona sull'Apoel, 1-0 del Chelsea sullo Schalke. Importante nel girone della Roma, sempre nel gruppo Elo, 0-0 tra Bayern Monaco e Manchester City, Porto batte Borisov 3-0, 0-0 invece tra Athletic Bilbao e Shakhtar e Maribor Sporting Lisbona. Molto bene, mi sembra un riassunto esaustivo. E intanto non so se a Michele Ainis, costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università Roma 3, editorialista del Corriere della Sera, importi qualcosa. Tu sei a Roma, ma non sei romano, Michele, ti importa di questo 4-0 per il momento? Ti lascio indifferente. Siamo tutti contenti quando una squadra italiana insomma fa un gol. Beh, patriottismo. Senti Michele, lì fanno gol, ma mi pare che oggi niente, ancora buca è andata in Parlamento per l'elezione della consulta di 2 dei 5 membri di nomina parlamentare e poi la contemporanea mancata indicazione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Napolitano si è arrabbiato molto, però pare che non abbia sortito effetti questa sua arrabbiatura anche oggi, questo suo monito, come si dice. C'è stato anche un incontro di quasi 2 ore tra Renzi e Berlusconi, però si arriva domani alla 13ª votazione, mi pare, se non sbaglio. Ci spieghi, Michele Ainis, che importanza ha questa operazione? Ma intanto devo dire, ma questo lo dico da cittadino, perché vedere mille signori e signore che non trovano un accordo, non su questioni politiche di principio, poco fa parlavate dell'articolo 18 che è un tema divisivo, ma su delle nomine e quindi su così insomma dei posti da passare, trattati peraltro come appunto se fosse una partecipata qualunque. Invece la Corte Costituzionale, qui sarà anche un po' banale dirlo, ma c'è una Costituzione, se c'è qualcuno che la difenda, c'è una legalità costituzionale se esiste un vigile che può fischiare e multare chi passa col rosso. Certamente vigile siamo noi tutti cittadini, cioè questo sentimento deve sorreggere una comunità, perché altrimenti non basterebbe nessun tribunale costituzionale. Però il tribunale costituzionale è un lavoro molto importante, viene brevettato all'inizio dell'Ottocento negli Stati Uniti, in tutte le costituzioni liberal-democratiche esistono, e anche in quelle non liberal-democratiche, insomma si è molto diffusa la giustizia costituzionale, affidata in Italia appunto a un collegio di 15 membri che vennero dosati con il bilancino del farmacista dai costituenti, perché di questi 15, 5 vengono nominati dal Presidente della Repubblica, altri 5 vengono eletti dalle magistrature supreme, che sono Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, e infine 5 dal Parlamento in sua comune. Ora, questo mix che senso aveva, che senso ha? Quello di mandare alla Corte Costituzionale dei giuristi, devi essere professore di diritto, non di anatomia, o avvocato, o magistrato. Quindi anche tu potresti essere un buon candidato, per esempio. Ah, ma non mi pare che ci sia questo pericolo. Non c'è questo... Neanche per te forse c'è il pericolo, che è meglio così per te, Michele Ainis. No, mi piace il lavoro che faccio, ma insomma stavo dicendo che allora questi 5 parlamentari, il senso è quello che dovrebbe trattarsi di giuristi con una sensibilità politica, perché interpretare la Costituzione significa interpretare dei principi molto generali che aggrediscono la politica, che hanno a che fare con la politica, perché sono le regole, diciamo, del gioco politico, quelle contenute in una Costituzione. Quindi a chi obiettasse sarebbe meglio che non fossero rappresentanti politici quelli alla consulta o CSM, questa è la ragione, nel senso che devono interpretare anche politicamente. Ecco, però un conto è un giurista con sensibilità politica, un conto è un politico che ha fatto anche il giurista, insomma, nei ritagli di tempo. E qui io non voglio dare giudizi sulle persone, sono tutte rispettabili, però il Parlamento ha sempre, diciamo, avuto la tendenza di selezionare per lo più dei politici di lungo corso. In passato ci fu anche un ex segretario di un partito, quello socialdemocratico, che andò a fare il giudice costituzionale, E queste, diciamo, decisioni parlamentari sono sempre molto complesse e molto sofferte. Ho qui davanti i numeri, il record è di una vacanza che durò 623 giorni, quando nel 1995 cessò il mandato di Caglianiello e il suo successore, il Parlamento, ci mise 2 anni in sostanza per trovarlo. Ma quindi secondo te è possibile che andrebbe rivista, diciamo, la composizione della quota, insomma, di parlamentari al CSM o la Corte Costituzionale? Cioè, se non si è arrivati a votare, ci sono stati tanti altri casi, dicevi, questo che avevi citato era il record, vuol dire che va cambiato qualcosa o solo questo Parlamento che non riesce a, in questo momento, quali sono le dinamiche? In un minuto che abbiamo ancora. Sì, certamente non sta dando una grande prova di efficienza, e anche l'accordo politico che regge la legislatura, che è il patto del Nazareno, insomma, comincia a mostrare delle crepe, perché se non tengono i parlamentari, se gli ordini di scuderia non vengono rispettati, si vede che lo scudiere, come si dice, insomma, non ha il frustino in mano. Io però ho visto che oggi il Presidente della Repubblica, insomma, tra l'altro diceva: stiamo attenti a toccare i quorum, ad innalzarli. È vero che questo, diciamo, è sempre un problema di equilibri. Se è troppo facile scavalcare il quorum, sarà allora più facile mandare in questi posti organi di garanzia un fedele vassallo del signore politico di turno. Se invece diventa troppo impervio, il quorum arrivi alla paralisi. Però noi siamo in un sistema maggioritario, e in un sistema maggioritario c'è una super rappresentazione del partito di maggioranza. Questo indebolisce le garanzie costituzionali e anche il quorum, sicché io tutto sommato me lo terrei, e direi che però se il Parlamento è incapace di operare la nomina, esistono poi dei rimedi. Il rimedio estremo si chiama scioglimento delle camere. E qui andiamo ad altre riflessioni, però per il momento fermiamoci qui, vediamo se la 13ª ci riescono domani, Michele Ainis, va bene? Grazie. D'accordo, intanto ci porta bene. Beh, va bene, grazie, ciao Michele, arrivederci. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se ve le siete perse le notizie ve le riassumo brevissimamente. Avete sentito ancora fumata nera per la 12ª volta in Parlamento per eleggere i membri laici della Consulta del CSM, nonostante il vertice Renzi-Berlusconi, nonostante il monito di Napolitano. Poi col lavoro il governo accelera sulla riforma e battaglia sull'articolo 18 e i sindacati sono pronti allo sciopero. Poi c'è un scandalo che si aggiunge allo scandalo Expo, indagato il commissario delegato per vie d'acqua, accusa per tangenti. Poi invece internet, questa è una notizia particolare, senza limiti, è stato superato oggi il traguardo di 1 miliardo di siti, il record assoluto. Adesso poi c'è la Roma che avete sentito a 4-0 in Champions League contro il CSKA, ma parliamo adesso dello spazio europeo. Europa 24 notte. Our Streets, Our Choice, le nostre strade, la nostra scelta, è lo slogan dell'edizione 2014 della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, un'iniziativa giunta ormai al 13° anno, promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei trasporti rispetto alla qualità dell'aria e incoraggiarli a usare mezzi alternativi all'auto privata. Un'occasione per i comuni, le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuovere proposte alternative e sostenibili. Anche il nostro Ministero dell'Ambiente ha aderito promuovendo svariate iniziative. Alessandra Schepesi ha sentito il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Dobbiamo ricordarci una cosa: quando parliamo di qualità dell'aria, quando parliamo di mobilità sostenibile, stiamo parlando di rispetto dell'ambiente e soprattutto anche della nostra salute. Per questo il mio ministero è in prima linea e bisogna farlo promuovendo trasporti urbani alternativi che contribuiscono anche a migliorare la qualità dell'aria, e io aggiungo, migliorando la qualità dell'aria si migliora anche la qualità della vita delle persone, perché città più vivibili sotto il profilo dell'inquinamento e del traffico sono una grande occasione per alzare la qualità di vita dei cittadini che oggi soffrono una crisi senza precedenti e hanno bisogno di vivere in città migliori di quelle in cui vivono oggi. Il nostro impegno va in questa direzione. Ognuno penso possa apprezzare gli sforzi che si stanno facendo nelle città per introdurre nuovi sistemi di mobilità più meno inquinanti e più sostenibili ambientalmente. Continueremo in maniera molto forte su questa direzione. La mobilità sostenibile è un costo oppure conviene economicamente? Conviene assolutamente. Tutto quello che è green economy e quindi anche la mobilità sostenibile è diventato un business economico. Lei pensi che durante la crisi l'unico settore che è aumentato in termini di fatturato e in termini anche occupazionali ha contribuito un po' a mitigare la disoccupazione soprattutto in campo giovanile è proprio quello della green economy compresa la mobilità sostenibile. Questa è una grande opportunità economica. L'Italia però rimane sempre il fanalino di coda, però non è solo una questione culturale, perché c'è per esempio un boom della vendita delle biciclette, c'è voglia di mobilità sostenibile, però non ci sono le infrastrutture, non ci sono politiche adeguate. La settimana della mobilità sostenibile va proprio in questa direzione, a rinnovare un impegno che non deve essere solo del mio ministero, ma deve essere dei comuni, delle regioni e anche dei cittadini, delle singole aziende, che deve proprio andare in questa direzione. È importante perché riporta l'attenzione su questo tema. Un'iniziativa in particolare, un progetto, diciamone uno, per migliorare le nostre città, più piste ciclabili, car sharing. Le cito il car sharing perché chi vive a Roma, Milano e in altre città ha potuto constatare personalmente qual è stato l'esplosione di questo servizio. I cittadini l'hanno capito immediatamente e lo utilizzano. L'utilizzo è esponenziale mese dopo mese. Quindi, come diceva lei, c'è voglia di mobilità sostenibile. Tocca a noi oggi corrispondere in maniera adeguata. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Restiamoci in Europa, non in Europa naturalmente, un'Europa che più che unitaria vuole un po' spezzettarsi. Parliamo di Scozia, insomma, domani si gioca un po' il destino della Scozia, ma anche della Gran Bretagna e non solo, perché sapete c'è il referendum sul quale la Scozia vorrebbe staccarsi dalla Gran Bretagna. In realtà negli ultimi sondaggi, per esempio il sondaggio della società Opinion riportato dal quotidiano britannico Telegraph conferma per ora un testa a testa a poche ore dall'apertura dei seggi tra separatisti e unionisti. Il 52% degli scozzesi intervistati dice no all'indipendenza, il 48% voterà sì e pare che pesi parecchio il voto delle donne. Il 58% sono contrarie all'indipendenza, l'elettorato maschile ha anche spaccato a metà ma nelle dichiarazioni di voto prevale il sì al 53%. Chiedo allora a Francesco De Remigis, che proprio lì in Scozia il clima è sempre più rovente, che cosa avverti tu in questo momento, Francesco, poche ore appunto dal referendum? Ciao Francesco. Sì, buonasera, buonasera agli ascoltatori. Diciamo che gli indipendentisti sanno benissimo che i sondaggi sono ormai tutti a sfavore, li hai citati tu, ma 4 punti di distanza, dicono, nelle intenzioni di voto si possono ancora recuperare. Dunque via libera a quella che è stata definita la nuova ondata di postazioni per il sì, che oggi hanno invaso le strade di Edimburgo e delle più importanti città della Scozia, dove la polizia però ha anche registrato alcuni episodi di aggressione, non solo verbale, come quella che ha colpito un pensionato a Glasgow, per esempio, che militava nel fronte opposto. Il sì, il fronte del sì ha distribuito circa 2,5 milioni di volantini nelle ultime 24 ore, i votanti, lo ricordiamo, sono 4,285,000 e quella del volantinaggio, anche con una certa insistenza, è parsa però l'ultima soluzione possibile, visto che la retorica del premier scozzese Salmond, che è anche il capofila degli indipendentisti, non è parsa funzionare, stando, come ci dicevi tu, agli ultimi sondaggi. Ci sveglieremo venerdì in un paese migliore, ha insistito oggi, ma sono tanti ancora i punti che Salmond non è riuscito a chiarire, lasciando spazio al fronte del no per portarsi ulteriormente in vantaggio tra gli indecisi, stimati in 500,000. Un'eventuale Scozia indipendente manterrà, diciamo, la sterlina, è stato confermato anche questa mattina, ma cresce quella che è la sensazione che si debba poi affrontare un aumento delle tasse a partire poi dal 2016. che dovranno servire a coprire le spese necessarie a costruire, diciamo, quella che è l'autonomia. Non basta infatti un sì a rendere un paese indipendente, soprattutto certo. se finora ha vissuto con l'onda, diciamo, che ha coperto le spese. Hanno un po' di ore ancora per rifletterci gli scozzesi, poi ci aggiorniamo domani. Francesco De Remigis, grazie intanto, adesso vi lascio per pochi istanti, a dopo.